in primo piano. In questo mercoledì 27 luglio le scelte di aperture sono abbastanza diversificate, non c'è una notizia portante, anche se la maggior parte dei quotidiani apre sulla politica la questione del Presidente della Repubblica Napolitano, che si è detto contrario con una lettera all'apertura delle sedi distaccate dei ministeri. Insomma, la notizia del giorno di politica è questa. Vediamo allora i titoli del Sole 24 Ore. L'asta bot tiene ma tassi in rialzo, questo il titolo di apertura sui mercati. E allora, il Colle frena i ministeri al nord, così titola il Corriere. Per Repubblica, ministeri al nord, il no del Quirinale. Per La Stampa, ministeri al nord, l'alt del Colle. Alto là di Napolitano per Avvenire. Il Messaggero, ministeri al nord, alt di Napolitano. Titoli un po' fotocopia. Mentre il Giornale Libero continuano sulla questione PD, il Giornale PD diversamente ladri, Bersani mente al Corriere. La lettera di ieri al Corriere, oggi Bersani ha scritto un'altra lettera al Fatto Quotidiano. Per Libero, il PD impone il pizzo anche ai lottizzati. E il Fatto Quotidiano invece apre su Alitalia, addio, bruciati 4 miliardi. Ecco quanto ci è costato il salvataggio patriottico voluto da Berlusconi. Il Manifesto, voto crociato, è l'affossamento della legge sull'omofobia. Mentre per l'Unità c'è Barack Obama col titolo col fiato sospeso, questo in apertura. Ma anche un napolitano dice no al governo. Le segnalazioni da cui voglio partire, la prima è questa. Ma vi ricordate la vicenda Mike Bongiorno, il fatto che la sua bara e la sua salma siano state trafugate? Beh, sono passati 6 mesi, La Stampa ci ritorna con un articolo a pagina 22. Mike, 6 mesi senza pace, un altro sciacallo sulla bara. Arrestato e liberato, secondo la procura è estraneo al furto del feretro. C'è un altro arresto, è il terzo nelle indagini sul trafugamento della salma di Mike Bongiorno, scomparso dal cimitero di Dagnente sopra Roma il 24 gennaio. Dopo 6 mesi di silenzi, appelli della famiglia, accorata attesa, la bara non si trova. Né in paese né in tutti i loculi del Vergante dove i militari hanno passato al setaccio catapecchie, ville, garage, ogni antro si prestasse a celare il feretro del presentatore morto l'8 settembre del 2009. Mike Bongiorno è svanito nel nulla. Ebbene, c'è stato un terzo arresto di una persona, forse uno sciacallo, forse un mitomane. Si ricordano anche gli altri 2 arresti di Pasquale Cianci e Luigi Spera, 64 e 53 anni, sorpresi a Milano in zona San Siro a telefonare da una cabina alla famiglia Bongiorno chiedendo un contatto con Fiorello e Baldini per concordare con loro i termini per la restituzione della bara. E alla richiesta dei familiari di Mike di fornire una foto della bara, uno dei 2 al telefono farfuglia, l'altro perde la pazienza, gli strappa di mano la cornetta troncando la conversazione. 2 balordi? Il dato di fatto che furono arrestati, verranno processati, ma il loro con giudizio immediato l'accusa non è furto ma tentata estorsione. L'ipotesi è che non siano del tutto estranei al furto della bara, è un filo sottile per gli investigatori, imbastito sul ritrovamento nelle tasche di Spera di un biglietto con annotato il numero di una trattoria vicino ad Arona. Però davvero non c'è pace per Mike Bongiorno, la sua salma da 6 mesi è davvero svanita nel nulla. La seconda segnalazione è questa: che cosa c'entrano il capo della polizia Antonio Manganelli e Beppe Grillo? Beh, lo svela oggi il Secolo XIX in prima pagina con Matteo Indice e Marcello Zinola. Perché il capo della polizia Manganelli ha risposto a una lettera che in occasione del decennale del G8 Beppe Grillo gli aveva indirizzato sul suo blog. Ed è la prima volta che Antonio Manganelli, il capo della polizia, parla con questa lettera della vicenda del G8 in maniera abbastanza pubblica, quello che il Secolo definisce un documento importante, il primo segnale dopo le tante richieste di scuse. E beh, perché Beppe Grillo, sentite cosa scrive il Secolo, dice Manganelli che per adottare provvedimenti nei confronti dei poliziotti eventualmente colpevoli bisognerà attendere la Cassazione, così impone la legge. Ribadisce che tuttavia dando per scontato che furono introdotte false prove. Assicura che gli avanzamenti di carriera di alcuni dei poliziotti protagonisti dei peggiori fatti al G8 sono stati normali. E però si dice pronto a discutere la proposta di dare un numero identificativo a ciascun agente impegnato in servizi di ordine pubblico. Questi cardini della lettera del capo della polizia, appunto il documento importante, in risposta a Beppe Grillo, quasi un botta e risposta a quello che propone Manganelli. I lavoratori di polizia, rimarca, compiono ogni giorno in ogni parte d'Italia veri e propri atti di eroismo che confermano l'amore e la vicinanza per il prossimo. Purtroppo non sempre la comunicazione mediatica ne dà il giusto risalto. Ma ecco il primo punto su cui fa uno scatto Manganelli: chi ha macchiato la divisa violando la legge lo deve dire una sentenza penale definitiva, cioè quella della Cassazione, che a distanza di 10 anni non è ancora arrivata. Io non mi nascondo dietro a un dito e, al di là delle responsabilità di chi è arrivato a Genova per fare guerriglia e devastare, colpevolmente cancellate da un colpo di spugna anche dai ricordi del decennale, vi sono certamente responsabilità riconducibili ad appartenenti alla polizia. Ci penso continuamente, sono ben consapevole che tutto ciò ha minato il necessario rapporto di fiducia tra il cittadino e chi è chiamato a tutelarlo. Ma, ribadisce Manganelli, la nostra legge dice che un procedimento disciplinare a carico di un operatore di polizia non si può avviare se esiste a suo carico un procedimento penale, e dunque bisogna arrivare alla Cassazione. Certo, fa notare il secolo XIX, una cosa non fa notare Manganelli, che, come ha fatto rivelare un'inchiesta, la Cassazione probabilmente non si pronuncerà mai a causa della prescrizione di questi processi. E il secolo XIX dice: e alcuni degli imputati hanno contribuito in prima persona al fatale allungamento dei tempi che porteranno in prescrizione, con una serie di strategie giudiziarie legali ma di certo opinabili. Un altro dei nervi scoperti da Grillo era quello delle promozioni. In caso si riferiva a Grillo, per esempio, a Spartaco Mortola, condannato con due verdetti di secondo grado a 4 anni e 10 mesi, o Alessandro Perugini. Entrambi non hanno visto minimamente intaccata la propria carriera. Manganelli spiega così: qualcuno ha avuto l'avanzamento della propria qualifica, qualcuno no, secondo le ordinarie procedure. Tutti sono stati valutati con non quali condannati, perché, come ho detto, non lo sono. Insomma, è un documento importante, una lettera del capo della polizia a Beppe Grillo sui fatti del G8 a distanza di 10 anni. Allora, alle 7:32 minuti, la giornata politica certo è stata segnata con... da che cosa? Dal fatto che il capo dello Stato, Giorgio Napolitano, ha scritto una lettera, il cui testo non è pubblico, ma alcuni particolari sono sui giornali, perché si è detto preoccupato per quella manifestazione sabato in cui a Monza sono stati aperti alcuni uffici di alcuni ministeri, un'iniziativa fortemente voluta dalla Lega. Preoccupato per i ministeri al nord, così titola Il Sole 24 Ore a pagina 13, Napolitano scrive a Berlusconi: rilievi sul decentramento del governo nel territorio. Già nelle scorse settimane, scrive Dino Pesole, aveva fatto intendere chiaramente quale fosse il suo punto di vista in materia. Ora la nuova offensiva della Lega, culminata sabato nell'inaugurazione degli uffici di 4 ministeri alla Villa Reale di Monza, induce il presidente Napolitano a rendere esplicito il suo punto di vista con una lettera al presidente del Consiglio Berlusconi. Nella lettera Napolitano esprime rilievi e motivi di preoccupazione sul tema, oggetto di ampio dibattito, del decentramento delle sedi dei ministeri sul territorio. Insomma, diciamo che questa iniziativa, che qualcuno ha definito goliardica, qualcuno ora della Lega si presta a definire ma no, ma è solo, come dire, simbolica, sta di fatto che sta creando qualche problema politico. Il presidente dell'ANCI Lombardia e il sindaco di Varese, anche leghista, Attilio Fontana, intervistato dal Corriere, dice: non capisco le critiche, è un passo verso il federalismo, la lettera è una lettera incomprensibile, quella di Napolitano. A fine marzo il presidente è venuto qui a Varese e ha ribadito quanto è andato sostenendo per mesi in giro per l'Italia, l'assoluta necessità di procedere con le riforme, attuare un federalismo vero. E poi Fontana se la prende con Alemanno. Tra Alemanno e la Lega volano proprio stracci da giorni e giorni. Alemanno deve solo avere il buon gusto di non aprire bocca. Così parlò il sindaco di Varese. Pensi al debito della sua città e ai 350 milioni di euro che porta a casa extra budget. Intervistato da Elsa Muschella sul Corriere, Attilio Fontana dice così. È duro anche Matteo Salvini, eurodeputato e capogruppo della Lega in comune a Milano. Napolitano forse si è arrabbiato perché le pareti degli uffici nella Villa Reale sono dipinti male? Inizia così con l'ironia. E poi la presa di posizione di Napolitano mi stupisce, perché il trasferimento al nord, oltretutto a costo zero di uffici di rappresentanza, è un simbolo e non il punto di arrivo della Lega. E poi è un crescendo, no, di Salvini, che dice: se Napolitano è preoccupato perché apriamo 3 uffici a Monza, allora quando l'Italia diventerà una repubblica federale cosa farà? Si frusterà su pubblica piazza? Francamente non lo capisco. Da tante parti ci si oppone al cambiamento e quest'aria parte da Roma e Napolitano sta a Roma. Eccolo lì, Matteo Salvini, la battaglia contro Roma. Alemanno l'ha sintetizzata così ieri, intervenendo in TV a Omnibus al Mattino, in un crescendo rossiniano di dichiarazioni. Si è prodotto anche un "dopo tutto questo prendiamo atto degli insulti di Bossi, che sono medaglie che mi attacco alla giacca". Così con gli insulti della Brambilla, arriva 2 medaglie, il crescendo rossiniano è finito con un "a questo punto dico, il sindaco di Roma dice andate al diavolo". E infatti il Messaggero titola pagina 3: "La Lega vada al diavolo", così Alemanno a Bossi. E vabbè, insomma, c'è anche da dire che secondo il retroscena di Silvio Berlusconi, la giornata di Silvio Berlusconi, anche un Berlusconi che per il momento non risponde. Per il Corriere avrebbe affidato a Gianni Letta il compito di rispondere oggi con una lettera ai rilievi mossi dal capo dello Stato. Lui personalmente non ha rilasciato alcuna dichiarazione riguardo a questo, ma i giornali lo danno per infuriato, questo almeno alcuni giornali. Repubblica, per esempio: "L'ira di Silvio sul Quirinale, vuole farmi litigare con Bossi". E la giornata di Berlusconi è, diciamo, scandita da alcuni appuntamenti. Tra l'altro ha visto anche il sindaco di Napoli De Magistris, abbiamo sentito nel giornale radio, e De Magistris sarà nostro ospite alle 8:20. Cercheremo di capire questi due grandi nemici politici come si sono confrontati. "Non possiamo farci commissariare dal capo dello Stato", questa è la frase attribuita a Berlusconi, per la verità, da vari giorni, ma ribadita ieri. Tra l'altro poi dopo ha incontrato Berlusconi, che anche per l'Unità è infuriato con il Colle, il solito, ma anche per la Stampa: "Il Colle vuole costringermi a litigare con la Lega", questa è la frase che Ugo Magri attribuisce a Silvio Berlusconi. Ma c'è anche che cosa da parte di Ugo Magri sulla Stampa? Beh, intanto il fatto che c'è questa definizione, le vecchie zie Letta e Bonaiuti. Ma non so, c'è questo passaggio: diversamente dalle vecchie zie Letta e Bonaiuti, ma vecchie zie messo tra virgolette come se fosse una definizione di Berlusconi, diversamente dalle vecchie zie il premier è tentato di snobbare la lettera del presidente. "Vi scorge un'insidia politica? Napolitano vuole costringermi a smentire Bossi e Calderoli sui ministeri", insomma mi vuol far litigare con la Lega. E poi Berlusconi ha incontrato Lino Banfi, dopo De Magistris, cioè immaginate anche la scena, un pochino ridicola, cioè esce il sindaco di Napoli De Magistris, entra Lino Banfi. E tra l'altro, secondo Lino Banfi ha detto che Berlusconi domani si dovrà operare, così dice il Corriere della Sera, domani dovrà operarsi. "Io mi opererò oggi di menisco", Lino Banfi, "e lui dopodomani, cioè giovedì, si opererà al tunnel carpale. L'ho trovato abbattuto per molte vicissitudini". Tra l'altro una di queste vicissitudini pare, questo da alcune indiscrezioni dei giornali, secondo la Stampa, secondo Repubblica, che praticamente dopo che Berlusconi, la Finivest, ha pagato ieri la notizia, il risarcimento, mega risarcimento, quant'è, 540 milioni rotti alla CIR di De Benedetti, C'è un Berlusconi ossessionato da questa cosa perché, sentite La Stampa con Ugo Magri, in aereo parlava di questo: visto che dispone di liquidità, pure la servitù ora ne profitta per battere cassa. Cioè pare che molti dipendenti di Berlusconi dicono, beh, insomma, visto che è in grado di pagare una somma così ingente, pare che chiedano tutti l'aumento. E anche per Repubblica, nel retroscena di Francesco Bei, ha confidato sconsolato a un amico: quando hanno visto che potevo pagare De Benedetti, anche i dipendenti del personale di servizio ad Arcore mi hanno tutti chiesto l'aumento. E beh, effettivamente, dice, visto che ha tanti soldi a disposizione, allora tutti in fila a battere cassa. Tra l'altro, visto che parleremo con De Magistris anche della questione dei rifiuti, c'è una questione politica. Ieri è andato sotto il governo con un emendamento del Partito Democratico che è stato approvato e che prevede questo, l'ha voluto il capogruppo in Commissione Ambiente del PD Alessandro Bratti: impegna il governo a consentire il trasporto dei rifiuti dalla Campania in tutte le regioni italiane, in particolare in quelle del nord. Questo dice l'emendamento, tanto che oggi la Padania titola a caratteri cubitali: il PD vuole il nord discarica di Napoli. Lega sulle barricate, no all'ordine del giorno con cui la sinistra chiede il trasferimento in tutte le regioni, specie in Padania. Tra l'altro, specie al nord, notate la finezza sulla Padania, diventa specie in Padania. A proposito di Cire De Benedetti, una notizia invece che viene data da Libero, e cioè che Marina Berlusconi, presidente di Mondadori, è pronta a querelare Marco Travaglio. Questo così, per chi si appassiona a queste cose. La guerra di Marina Travaglio, la primogenita di Berlusconi, querela il vice direttore del Fatto Quotidiano. Non è possibile insultare impunemente persone e aziende. I miei legali preparano la prima azione giudiziaria. E si dice la prima perché temo che le altre ne dovranno seguire. Non è possibile, appunto, che si insultino e si diffamino impunemente persone e aziende. Il nodo è sempre quello. Alcuni commenti della sentenza che ha imposto il pagamento della maxi multa 560 milioni alla Cirri De Benedetti da parte di Marco Travaglio, che non sono piaciuti al presidente di Mondadori, Marina Berlusconi. La seconda notizia certamente politica del giorno è quella della questione della legge sull'omofobia. Non è escluso che domani ce ne occuperemo. L'affossamento, ed è la seconda volta che viene affossata la legge sull'omofobia, cioè il fatto di introdurre delle aggravanti per chi compie un'aggressione nei confronti di una persona omosessuale in quanto omosessuale. C'è un grande dibattito: è giusto mettere questa aggravante oppure è sbagliato mettere queste aggravanti, perché le aggravanti ci sono già, secondo alcuni, per futili e abietti motivi, e quindi già il codice penale prevede questo, e quindi sarebbe paradossalmente una discriminazione considerare la categoria degli omosessuali diversa rispetto a tutte le persone normali. Sta di fatto che il tema è molto dibattuto. Ci sono due interviste interessanti su Repubblica. Rocco Buttiglione: volevano promuovere uno stile di vita, così si viola l'uguaglianza. E proprio Buttiglione dice questo: io sono contro le discriminazioni, ma questa legge nasce sulla base culturale della cosiddetta discriminazione positiva. Si attribuiscono cioè ad alcuni cittadini più diritti che non ad altri, perché si ritiene sia un risarcimento per torti del passato o perché si vuole favorire uno stile di vita giudicato positivo e da diffondere. Il principio della discriminazione positiva contiene in sé il pericolo di far venir meno l'uguaglianza. E dice Buttiglione: l'aggravante c'è già per motivi futili o abietti. Chi picchia un omosessuale perché è omosessuale, un marocchino perché è marocchino, uno juventino perché è juventino, ebbene, tutti motivi futili, in qualche caso abietti. Perché rompere il principio di uguaglianza, che è un principio costituzionale? Questa è l'obiezione per la quale è stata respinta, affossata questa legge. Umberto Veronesi, invece, in un'intervista parallela, sempre su Repubblica, pagina 7, dice: no, se chi commette un reato lo fa con accanimento, è giusto aggravare la pena. C'è la prima pagina di Avvenire. Avvenire si occupa di questo, e c'è un editoriale di Marco Tarquinio, vale a dire il direttore. Bene ha fatto ieri la Camera dei Deputati a dire no, sottolineandone la incostituzionalità a una legge speciale a tutela delle persone omosessuali. In Italia, infatti, abbiamo legge a sufficienza per combattere violenze e discriminazioni. Basta solo decidersi ad applicarle per affermare che la nostra civiltà è basata sul rifiuto di ogni forma di intolleranza e sulla piena tutela della dignità e della sfera personale di ciascuno, tanto quanto sul giusto rispetto della libertà di pensiero e di opinione. L'obiettivo era diversamente ambizioso, dice Tarquinio. E poi più avanti, meglio, molto meglio, restare affidati alla chiarezza dei principi cardine e delle regole che ne discendono, purché si torni anche a considerare con la dovuta urgenza che per far valere principi e regole serve qualcosa che forse sembra banale, ma banale purtroppo non è più. Tanta buona educazione, che non è solo galateo, ma appunto un'educazione buona, cioè vera e umanamente profonda, tesa a formare uomini e donne di autentica e civile moralità, che sentono e riconoscono come del tutto sbagliati e dunque da riprovare e ritenere sanzionabili brutalità e aggressivi esibizionismi, invettive e insulti, volgarità e prevaricazioni. Questo e questo solo serve a questo nostro paese. Leggi uguali per tutti. Questo è il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio, su questa legge dibattuta. Si fa notare che Mara Carfagna, il ministro, si è astenuta da questo voto e noto anche, chiudo con una nota sì di irriverenza, va bene, ma va bene anche così. Vauro si cimenta con questo tema, su questo tema, sul Manifesto, la sua consueta vignetta: stop alla legge contro l'omofobia. Ritratto Berlusconi, così vi posso raccontare l'ultima sui froci. I giornali si cimentano ancora su quello che è la questione morale, il Partito Democratico, le accuse a Filippo Penati. Oggi per Luigi Bersani, dopo la lettera al Corriere della Sera che viene stigmatizzata, stroncata da alcuni giornali, per esempio Vittorio Feltri sul Giornale in prima pagina, il titolo credo che sia Bersani mente al Corriere, questo è il titolo del giornale. Oggi per Luigi Bersani prende ancora carta e penna, ci ha preso gusto e risponde anche al Fatto Quotidiano. Marco Travaglio aveva fatto una serie di critiche perché non parla, perché non risponde, il silenzio di Bersani. Ecco qui, caro direttore, Pierluigi Bersani in prima pagina del Fatto: mi si attribuisce la tattica o l'imbarazzo del silenzio sul caso Penati. Per la verità sono stato il primo a parlarne giovedì scorso alla Festa dell'Unità, intervistato da Corradino Mineo davanti a 4.000 persone. Quello che ho detto e scritto in questi giorni mostra forse una sottovalutazione del problema? Spero di no. Inizia così la lettera, intitolata «Siamo gente per bene, ci metto la faccia». Ribadisce un po' quello che ha scritto anche sul Corriere della Sera. Per quel che riguarda le inchieste, dice per esempio la vicenda Gavio Bersani Penati: ho già detto in altre occasioni ciò che ribadisco, il ministro delle attività produttive conosce tutti i principali imprenditori, li conosce, non li sceglie. Gavio, segnalandomi la preoccupazione per un contenzioso aperto con la provincia di Milano, mi disse di non conoscere il presidente appena insediato e mi chiese di favorire un incontro con Penati. Così feci, via telefono. Nell'evocare questo episodio si intende forse alludere a una combin poco chiara o addirittura illeciti che mi coinvolgerebbero? Se è così, e lo dico in tutte le direzioni, si illustri chiaro e tondo qual è la tesi e si abbia il coraggio di affrontare una sonora querela. E poi sul caso Pronzato: ho saputo dai giornali che Pronzato era un mio uomo, non è mai stato mio consigliere alle attività produttive, lo trovai 11 anni fa al Ministero dei Trasporti come consigliere ministeriale, lo confermai insieme ad altri consiglieri per il solo anno in cui fui ministro, divenne consigliere ENAC parecchi anni dopo, non fu mai responsabile dei trasporti, ha avuto la responsabilità tecnica sul trasporto aereo nel Dipartimento Trasporti del PD diretto da Matteo Mauri. Quella del doppio incarico è una cosa inopportuna, ne convengo, e da non ripetere in casi analoghi. E poi Bersani conclude: non nego di avere ricavato insegnamenti dalla vicenda, ma vorrei che la vicenda fosse messa nelle giuste dimensioni. Non dovrebbe essere troppo disagevole, peraltro, considerare quali siano le persone che davvero ho motivato e promosso in lunghi anni di vita amministrativa. Vabbè, e poi conclude: per le sue valutazioni Travaglio provi comunque a tener conto di una cosa, per quanto ai suoi occhi possa risultare poco credibile. Sono talmente provinciale paesano da mettere il buon nome che ho ricevuto davanti a qualsiasi cosa e a qualsiasi ruolo. E Travaglio risponde punto per punto, 7 punti che non gli sono piaciuti, vabbè, insomma, una lunga replica. Comunque, sul Fatto Quotidiano questo è il botta e risposta. Certo, le rivelazioni o le indiscrezioni su questa inchiesta continuano. Per esempio, Libero punta sulle dimissioni farsa di Penati, che resta al suo posto. Penati ieri, tra l'altro, si è presentato a una riunione del PD a Milano, tranquillo, insomma, si è presentato tranquillamente, non ha rinunciato, arriva con un pelo di ritardo, ne parla il Corriere con Andrea Galli a pagina 13, dice qualcosa con i giornalisti: io non ho conti correnti all'estero, mi trovo nella singolare situazione in cui uno di questi imprenditori sostiene che avrei restituito 7 o 10 anni dopo delle tangenti ricevute allora, i dubbi stanno affiorando, sulla stampa ho già trovato che la tesi non sta in piedi. E poi ancora Penati dice: in buona sostanza si tratta di 4 imprenditori, tutti indagati o addirittura condannati, che si sono scambiati ingenti somme di denaro con l'accusa di aver emesso sempre tra di loro fatture false. Sta di fatto che, insomma, c'è ancora molto di questo. Per esempio, il Giornale punta su quelli che sapevano ma stavano zitti, si riferisce alla intervista di Gabriele Albertini, ex sindaco di Milano, che disse: io ne parlai con Di Pietro, ne parlai con D'Ambrosio e Borrelli, lessero le denunzie senza fare nulla. Altra inchiesta e altra rivelazione l'abbiamo sentito nel Giornale Radio da parte dell'onorevole Milanese, l'ex consigliere di Giulio Tremonti. E beh, sui giornali c'è la famosa questione dell'affitto, no? Sapete che si diceva Tremonti ogni tanto si appoggiava a una casa di Milanese a Roma. E beh, in questa memoria contro i PM mi perseguitano, Milanese dice anche una cosa che prende tutti i titoli dei giornali, comprensibilmente per l'attenzione, ovviamente va confermata: Tremonti pagava a me metà affitto, da Giulio 4.000 euro al mese. Eccolo qui per Repubblica, così come per il Giornale: da Tremonti 4.000 euro al mese per la casa. E anche per la Stampa, con Guido Ruotolo, la difesa di Milanese: Tremonti pagava l'affitto. Tra l'altro Repubblica mette anche questa frecciatina: 1.000 euro a settimana, scrive Concita Sannino a pagina 10, pagate da Tremonti a Milanese, metà dell'affitto, 4.000 euro al mese, per un totale di affitto di 8.500 per la verità, quindi un po' meno di metà affitto, 1.000 euro a settimana pagati ma senza ricevuta. Questa è la frecciatina di Repubblica. Vabbè, so che non vi metterà di buon umore l'articolo di Marco Rogari sul Sole 24 Ore a pagina 8, ma sappiate che i parlamentari che finiscono, visto che c'è tanto il clima contro la casta, il clima di antipolitica, i parlamentari che finiscono la loro legislatura avranno liquidazioni, tra virgolette liquidazioni, da record, perché non è come il TFR di tutti noi lavoratori. Quasi 47.000 euro per ogni parlamentare, che diventano più di 140.000 dopo 15 anni in Parlamento, per chi smette la carica di parlamentare, così una sorta di liquidazione, 47.000 euro. Oltre al vitalizio mensile, quando avranno tenuto 65 anni, avranno compiuto 65 anni, che sfiora i 2.500 euro al mese. Sappiate che in Francia il vitalizio arriva a 60 anni e di 780 euro per chi fa una legislatura. In Germania la liquidazione cosiddetta è di 7.600 euro per 5 mesi, quindi insomma circa sui 40.000 euro, beh, più o meno come quella italiana. La pensione però non è di 2.500 euro per chi fa un mandato, ma 961 euro e arriva a 67 anni di età. Vabbè, sulla questione finanziaria voglio dire in rapida conclusione: c'è molto sulla questione ovviamente dell'America, ci si concentra sul Sole 24 Ore e anche sulla questione dei bot, e segnalo solo Aldo Cazzullo che intervista sul Corriere a pagina 2-3 l'ex premier Giuliano Amato: uno sforzo per la ricchezza di tutti. Amato rilancia che cosa? L'una tantum, eccolo qui. Continuo a pensare che prima o poi dovremmo trovare l'impegno che in certi grandi momenti della storia abbiamo avuto di lavorare pancia a terra e far produrre al paese tutto quello che può produrre. Allora io sono quello che ha detto: se un'imposta sulla ricchezza una tantum può abbattere il nostro debito per qualche decina di punti e tranquillizzare i mercati, non possiamo sottrarci. La patrimoniale di Amato, l'una tantum, rilanciato oggi dal Corriere della Sera. Chiudo con lo sport, perché a giudizio l'Atalanta trema, ma la Gazzetta dice che la Serie A è salva, si rischiano solo punti, ma certo c'è molto di questa vicenda con anche dei lati tragicomici. Deferito il Chievo perché Stefano Bettarini, 39 anni, uno che col calcio ormai c'entrava poco col calcio giocato, era tesserato del Chievo. Si è allenato qualche spezzone al Bentegodi, siccome è stato trovato, insomma, in questo giro di scommesse, ecco così che il Chievo, che l'aveva tesserato l'anno scorso, ripeto, uno che si era presentato solo a fare qualche allenamento, ma è pur sempre un bello conosciuto con molte entrature, allora il Chievo aveva pensato bene: ma sì, diamogli 20.000 euro a stagione, il minimo sindacale, lo tesseriamo, magari ci potrà tornare utile per qualche non so, entratura in TV. Scommesse, quindi hanno deferito il Chievo perché tra i giocatori suoi risulta Stefano Bettarini. Ma come? Misteri del calcio.